Nell'anno 149 giunse notizia agli uomini di Giuda che Antioco Eupatore muoveva contro la Giudea con numerose truppe. Era con lui Lisia, suo tutore e preposto agli affari dello Stato, che aveva con sé un esercito greco di 110.000 fanti, 500.300 cavalli, 22 elefanti e 300 carri falcati. A costoro si unì anche Menelao, il quale incoraggiava con molta astuzia Antioco, non per la salvezza della patria, ma per la speranza di essere rimesso al suo posto di comando. Ma il re dei re eccitò l'ira di Antioco contro quello scellerato, e quando Lisia ebbe additato costui come causa di tutti i mali, diede ordine che fosse condotto a Berea e messo a morte secondo l'usanza del luogo. Vi è là una torre di 50 cubiti piena di cenere. Essa ha un ordigno girevole che da ogni lato fa cadere a precipizio sulla cenere. Di lassù chi è reo di sacrilegio o chi ha raggiunto gli estremi in certi altri delitti, tutti lo spingono alla morte. In tal modo l'empio Menelao incontrò la morte e non trovò terra per la sepoltura. Giusto castigo, poiché, dopo aver commesso molti delitti attorno all'altare dove erano il fuoco sacro e la cenere, nella cenere trovò la sua morte. Il re avanzava con barbari sentimenti e con l'intenzione di far provare ai giudei trattamenti peggiori di quelli che avevano subito sotto suo padre. Quando Giuda seppe queste cose, ordinò al popolo di pregare il Signore giorno e notte perché, come altre volte, così anche ora aiutasse coloro che erano in pericolo di essere privati della legge, della patria e del Tempio Santo e non permettesse che il popolo, che aveva appena goduto di un breve respiro, cadesse in mano a quegli infami pagani. Quando ebbero fatto ciò, tutti insieme ed ebbero supplicato il Signore misericordioso con gemiti e digiuni e prostrazioni per 3 giorni continui, Giuda li esortò e comandò loro di tenersi preparati. Tenuto poi un convegno a parte con gli anziani, decise che si dovesse, con l'aiuto di Dio, risolvere le cose uscendo a battaglia prima che l'esercito entrasse nella Giudea e si impadronisse della città. Affidando poi ogni cura al Creatore del mondo, esortò i suoi a combattere da prodi fino alla morte per le leggi, per il Tempio, per la città, per la patria, per le loro istituzioni e pose il campo vicino a Modin. Data ai suoi uomini la parola d'ordine, vittoria di Dio, con giovani valorosi ben scelti, piombò di notte sulla tenda del re nell'accampamento, uccise circa 3.000 uomini e trafisse il più grosso degli elefanti insieme con l'uomo che era nella torretta e alla fine riempirono tutto il campo di terrore e confusioni, poi se ne tornarono a impresa ben riuscita. Quando già spuntava il giorno, la cosa era compiuta per la protezione del Signore che aveva assistito Giuda. Il re, avuto questo saggio dell'audacia dei giudei, tentava con l'astuzia la conquista delle posizioni. Così si spingeva contro Bet-Zur, una ben munita fortezza dei giudei, ma veniva respinto, aveva sfortuna e falliva, mentre Giuda faceva giungere il necessario agli assediati. Intanto Rodoco, appartenente alle file dei giudei, aveva rivelato i segreti ai nemici. Fu ricercato, preso e tolto di mezzo. Il re tornò a trattare con quelli che erano in Bet-Zur, diede e ricevette la destra di pace e se ne andò. Assalì gli uomini di Giuda, ma ebbe la peggio. Ricevette poi notizia che Filippo, lasciato in Antiochia a dirigere gli affari, agiva da dissennato e ne rimase sconcertato. Invitò i giudei a trattare, si sottomise, si obbligò con giuramenti a rispettare tutte le giuste condizioni, ristabilì l'accordo e offrì un sacrificio, onorò il tempio e beneficò il luogo. fece accogliere al Maccabeo e lasciò Egemonide come stratega di Tolemaide fino al paese dei Gerreni. Venne a Tolemaide, ma i cittadini di Tolemaide si mostrarono malcontenti per quegli accordi. Erano irritati contro coloro che avevano voluto abolire i loro privilegi. Salì allora sulla tribuna Lisia, fece la sua difesa meglio che poté, li persuase, li calmò, li rese ragionevole, poi tornò ad Antiochia. Così si svolse la spedizione del re e il suo ritorno.